Troppo vecchi per essere giovani, ma non ancora anziani. Se parlano quando parlano, agitano le mani. Se ridono quando ridono, lo fanno perché conviene. Sui loro precedenti non spiegano molto bene. Per sicurezza provano a investire nell'aldilà. Frequentemente barano, finanche sull'età. E su quella dei loro figli, anoressici e creativi. Sulle voglie delle mogli sono molto obiettivi. Sono ladri d'identità, non hanno più ricordi. Sentono quel che vogliono, fan finta di essere sordi. Se giocano quando giocano, non giocano mai per gioco. Se bruciano quando bruciano, non scherzano col fuoco. Intascano l'iPhone oppure una rivoltella. Se scaricano la musica è sempre quella. Troppo giovani per essere vecchi, ma senza la giovinezza. Arrampicano gli specchi per essere all'altezza. L'altezza delle loro legittime ambizioni. Hanno buoni propositi, ma pessime le intenzioni. E sparlano dei politici che sono tutti uguali. Sfogliando continuamente le pagine dei giornali. Se furono un po' artisti, scribacchiano ogni tanto. E se erano chitarristi, oggi vendersi l'impianto. Armati di cuffiette, si danno la maratona. Se il tempo non promette, rimangono in poltrona. Vissuti alla Coca-Cola e alla post-democrazia, con i vecchi compagni di scuola affittano nostalgia. Se viaggiano loro viaggiano per dire che hanno viaggiato. Apostoli dello costo con l'albergo prenotato, li vedi mentre aspettano il treno del giorno prima. Non cedono più il posto, seduti sulla panchina, pentiti senza rimorso, sergenti senza truppa. Si avvistano il soccorso, sono i primi sulla scialuppa. Sono ladri d'identità, non hanno più memoria. Raccontano quando parlano, sempre la stessa storia. Se giocano quando giocano, non giocano mai per gioco. Se bruciano quando bruciano, non scherzano col fuoco. Intascano l'iPhone oppure una rivoltella. Se ascoltano la musica è sempre quella. È sempre quella. Sempre quella. È sempre quella. La musica è sempre quella. La musica è sempre quella. La musica è sempre quella. La